1, 2, 3, 4. Documentazioni maniacali raccontano l'essenza di verbalizzazioni criminali all'apparenza. Io uomo figlio cane, coglione vagabondo, mi districo in casino tra le trame di sto mondo. E sto modo di parlare, capire per comprare, codare per pagare con la propria integrità. Il massacrante peso della libertà. Penalizzazioni sui reati ambientali, scegli pure da lista. Il nucleare, il buco nell'ozono, la sinistra. La sicurezza in mano ad individui stanchi, rotti come tanti, a non restar fuori dal grecce. Inquinamento a schegge, trafiggerà i polmoni. E la scoria radioattiva? No, prima le elezioni e la la la la. Rappresentazioni sul teatrale, il presidente afferma: per la pace si conquista con la guerra. L'allegro terrorista si rivolta nella tomba. La mia coscienza è sporca se la libertà si sconta. Maggioranza, centro, opposizione, qual è la differenza? Chiacchiericcio fastidioso mi trapassa la pazienza. Conflitto di interessi in un conflitto di persone che si scontrano e incontrano. Per una conclusione, la vittima di orgasmi della democrazia resta l'individuo il debole, l'illuso il chi che sia. E la la la la la la la la la la la la la la. Cosa resta e cosa resterà? Una canzone che fa...